gonfiato, è vero. Mi pento e mi do un go, forse dovrei starmene un po' solo. Da capo girone integro un respiro e mi cimento già in castigo in uno improvvero. Faghiro delle mie bugie, non facciamo illusioni su vecchie filosofie, un cambio di parrocchie, tuniche, parrucche, periodiche, prediche, come satiche, metodiche. Le mie bugie utile due che fa adesso andiamo anche qualifiche. Dimostriamo per negazione perfino le tesi di Forbach, io no. Neanche più critico, ormai gravito nel decadimento di una stella. Ed è patetico se non ciclico, e perché non crearne l'idea? Giudei gentili con diversi contrattempi non negarono colpe, purtroppo non seppero estirpare bene la prova del buon Giuseppe. Giudei gentili con diversi contrattempi dagli inseguito con le loro truppe, in nome della croce che sia morto mi serve. E quanti denari e fiumi di sangue per tal amore, quanti errori tra Pio XII, Papa Ratzinger e Monsignor Ruini. Ma infinitamente buono è tale signore, ormai mi viene il dubbio nell'industria di Dio e quanto ammonta il suo stipendio. Ponderate gente le mie parole, in tale episodio la mia immagine è blasfema. So what, ma non il senso che trapela. E se il vero si rivela o si rileva nell'industria di Dio, nell'industria di Dio, nell'industria di Dio, nell'industria di Dio. So what, one, Jesus coming. So what, one, Jesus coming.